La cena fra amici è stata a lungo un topos rigorosamente maschile. Al ristorante o in trattoria, nella gita fuori porta, in cerca del ruspante rimasto, o addirittura secondando tradizioni antiche fra le pareti domestiche a porte chiuse con le donne a sgobbare in cucina, no? Sembrerebbe che la convivialità fosse appannaggio del maschietto, come se la femminuccia dovesse partecipare delle tavole imbandite per due o al massimo per quattro, solo nella parte della preda sessuale. Come se l'indugio con le gambe sotto il tavolo, o i racconti che impreziosiscono l'occasione, o quel po' di torpore piacevole che sopravviene al bicchiere di troppo, non dovessero appartenerle. Per rendersi conto di quanto siano cambiate le cose, è sufficiente riflettere su due soluzioni pubblicitarie. La prima è quella dello spot televisivo dedicato ad un amaro. C'è lei che dice all'amica di un, no, di un recente abbozzo di flirt, ne sottolinea l'epilogo deludente quando ricorda che lui allora al dunque ha cominciato a parlarle di fuorigioco, di zona, di calcio all'italiana o di altre amenità ben lontane da quanto lei si era andata più maliziosamente attendendo. Orbene, ecco, dove sono, qui è il punto, dove sono queste due amiche al momento di questa confidenza? Al ristorante, da sole, ed è per questo che al racconto possono berci su in allegria un amaro che allora, proprio amaro amarissimo non deve essere. La seconda pubblicità l'ho trovata stampata in carta patinata e vorrebbe promuovere un vino bianco. Si avvale di un testo che gioca sulla metafora. Il vino in questione scende, e evidentemente scende come livello nella bottiglia, no? Il vino in questione scende, la serata sale. Sale come importanza, come vivacità, sale nella soddisfazione di chi la vive. L'immagine cui il testo si accompagna è costituita da una fotografia raffinata, no? Siamo al ristorante, un ristorante di alto livello, c'è una bottiglia del vino in questione in tavola e sedute a questa tavola stanno tre ragazze che se la bevono e se la sghignazzano. Siamo al momento delle facezie e il vino contribuisce del suo. Allora, chi ha qualcosa da vendere, qualcosa che fino ad ora ha venduto all'universo maschile, oggi può mutare destinatario. La comunicazione si adegua. Anche la serata fra amici, anche i più radicati privilegi dell'interazione sociale selezionano più liberamente i soggetti storici che li interpretano. E oggi siamo ancora all'amarino, Oggi siamo ancora all'amarino dal vino bianco che l'ideologia corrente vorrebbe così i più adatti al palato femminile. Ma di limatura in limatura al paradigma, domani arriverà presto l'ora del cicchetto forte, del barbera, magari perché no correlati ad un bel toscano.